Capitolo 16. Il puledro domato. Che cosa starà mai facendo quel ragazzo? Si chiedeva la signora Joe, vedendo Dan correre attorno al prato come se si trattasse di una scommessa. Era solo e pareva in preda a uno strano desiderio di prendersi una scalmana o di rompersi il collo, perché dopo parecchi giri cercò di saltare oltre il muro. Tentò una serie di salti mortali e infine, esausto, si lasciò cadere sull'erba davanti alla porta. Ti alleni per una corsa, Dan? Chiese la signora Joe seduta davanti alla finestra. Egli alzò vivamente gli occhi e, sebbene ancora ansante, rispose ridendo: No, sto solo sprigionando il mio vapore. Non potresti trovare un modo meno violento? Finirai per ammalarti se ti strapazzi tanto con questo caldo, disse mamma Joe ridendo anche lei e gettandogli un gran ventaglio fatto con una foglia di palma. È più forte di me, debbo correre da qualche parte, rispose Dan con un'espressione così strana negli occhi irrequieti che Joe ne fu turbata e gli chiese ansiosamente: Plumfield comincia a essere troppo piccola per te? Non mi rincrescerebbe se fosse un po' più grande, ma mi piace anche così. Però certe volte il diavolo mi entra in corpo e allora bisogna che scappi. Le parole dovettero essergli sfuggite contro la sua volontà, perché parve subito pentito di averle pronunziate, quasi sentisse di meritarsi un rimprovero per la sua ingratitudine. Ma mamma Jo capì quel che provava e, sebbene ne fosse dolente, non poté biasimare il ragazzo per la sua confessione. Lo guardò con una certa ansia, notando come s'era fatto alto e forte, come era energico il suo volto con quegli occhi ardenti e la bocca risoluta. E ricordando la sconfinata libertà che aveva goduta per anni, capì come anche la mite disciplina della sua casa dovesse pesare su di lui quando l'antico spirito ribelle si risvegliava. Eh sì, disse fra sé, al mio falco selvaggio occorre una gabbia più grande. Eppure, se lo lascio andare, temo che si perderà. Bisogna che trovi qualche cosa che lo attiri tanto da trattenerlo qui, al sicuro. Capisco perfettamente, disse forte. Non è il diavolo, come dici tu, ma il desiderio della libertà, naturale in tutti i giovani. Lo provavo anch'io un tempo e una volta fui addirittura sul punto di scappare. E perché non lo fece? Chiese Dan da lontano, venendo poi ad appoggiarsi al basso davanzale con l'evidente desiderio di continuare la conversazione. Perché non lo fece? Capì che era una pazzia e poi mi trattenne l'amore per mia madre. Io non l'ho la mamma, cominciava Dan. Beh, credevo che tu l'avessi ora, disse mamma Jo, sollevandogli dolcemente gli ispidi capelli sulla fronte accaldata. Lei è di una bontà infinita per me e io non posso arrivare a ringraziarla abbastanza, ma non è la stessa cosa, vero? E Dan le alzò in volto gli occhi tristi, con uno sguardo pieno di accorato desiderio che le arrivò al cuore. No, caro, non è la stessa cosa e non potrà mai esserlo. Io credo che una madre avrebbe significato tanto per te, ma poiché questo è impossibile, tu devi permettermi di tenerne il posto. Temo di non aver fatto tutto quello che avrei dovuto, altrimenti tu non desidereresti di lasciarmi, aggiunse poi tristemente. Sì, sì che lo ha fatto, gridò Dan con slancio. Non voglio andarmene e non me ne andrò, purché riesca a vincermi. Ma ogni tanto mi sembra d'essere sul punto di scoppiare. Mi piglia la voglia di correre all'impazzata, di fracassare qualcosa, di picchiare qualcuno. Non capisco perché, ma è quel che provo, ecco tutto. Dan rideva, ma parlava sul serio, perché aggrottò le sue nere sopracciglia e dette un tal pugno sul davanzale che il ditale di mamma Jo volò sull'erba. Quando glielo riportò, ella trattenne un minuto la grossa mano scura, dicendo, con uno sguardo che mostrava quanto le costassero quelle parole. Ebbene, Dan, scappa se è necessario, ma non troppo lontano, e torna presto da me, perché sentirò molto la tua mancanza. Egli fu assai sorpreso di questo inaspettato permesso, per effetto del quale la sua voglia di andarsene parve diminuita. Perché ciò avvenisse non riusciva a capirlo, ma ben lo capiva la signora Joe, che non ignara della naturale perversità della mente umana, e facendo assegnamento su di essa, intuiva nel ragazzo una reazione tanto più violenta quanto più fosse tenuto a freno. mentre, una volta lasciato libero, il senso stesso della libertà, unito alla certezza che la sua presenza era cara a quelli che gli più amava, basterebbe ad appagarlo. Era un piccolo esperimento, ma riuscì, perché Dan, dopo un attimo di silenzio, durante il quale aveva senza accorgersene fatto a pezzi il ventaglio, rimuginando la cosa nel suo cervello, comprese che ella faceva appello al suo cuore e al suo onore, e lo dimostrò dicendo infine, con un misto di rammarico e di decisione: «Per ora non me ne andrò, e comunque la avvertirò prima di scappare, va bene?» «Benissimo, restiamo d'accordo così. Ora vediamo un po' se non ci sia un qualche mezzo perché tu possa sfogare la tua pressione, meglio che correndo qua attorno come un cane arrabbiato, rovinando i miei ventagli o facendo a pugni coi ragazzi. Che si potrebbe inventare?» E mentre Dan cercava di rimettere insieme il povero ventaglio, Mamma Jo si stillava il cervello per escogitare il modo di trattenerlo finché non avesse imparato ad amare di più la scuola. «Ti piacerebbe essere il mio fattorino?» disse, mentre un'idea improvvisa le passava per la mente. «Andare in città a sbrigare le sue commissioni?» chiese Dan, subito interessato. «Sì, Franz non ha più voglia di farlo. Di Silas ora non posso disporre e papà Baer non ha tempo. Il vecchio Andy è un cavallo sicuro, tu guidi bene e conosci la città come un portalettere. Potresti provare e vedere se questa gita 2 o 3 volte alla settimana non valga quanto scappare una volta al mese. Mi piacerebbe moltissimo, ma voglio andare solo e fare tutto da me. Non desidero nessuno degli altri fra i piedi», disse Dan, accettando con tale slancio la nuova idea che già si dava le aree di un uomo d'affari. «Se il signor Baer non avrà nulla in contrario, potrai fare completamente a modo tuo. Forse Emil brontolerà, ma lui non è pratico di cavalli e tu sì. A proposito, domani è giorno di mercato e io devo redigere la mia lista. Tu farai bene a vedere che il carro sia in ordine e a dire a Silas che prepari la frutta e la verdura per mia madre. Dovrai levarti presto e tornare in tempo per la scuola. Te la senti? Sono sempre stato un uccello mattiniero, la cosa non mi spaventa». E Dan si infilò prontamente la giacca. «E questa volta l'uccelletto mattiniero beccherà un bel verme, ne sono sicura», disse scherzosamente la signora Jo. «Un bellissimo verme», rispose Dan, mentre si allontanava ridendo per rinnovare la corda della frusta, lavare il carro e dare gli ordini a Silas con tutta l'importanza di un giovane fattorino. «Prima che si sia stancato di questo, troverò qualche altra cosa per averla pronta quando gli prenderà il prossimo attacco di irrequietezza», pensava Mamma Jo, scrivendo la sua lista, grata nell'intimo del cuore che gli altri ragazzi non fossero come Dan. Papà Baer fece qualche riserva per il nuovo progetto, ma permise che si tentasse la prova, il che mandò in visibilio Dan, facendolo rinunziare a certi suoi progetti, nei quali la frusta nuova e il lungo pendio della collina avrebbero avuto la loro parte. Si alzò molto presto, la mattina seguente, e resistette eroicamente alla tentazione di fare le corse coi lattivendoli che si recavano in città. L'ha giunto, sbrigò con la massima diligenza le sue commissioni e tornò a casa in tempo per la scuola, con grande sorpresa del signor Baer e soddisfazione della signora Jo. Il comodoro brontolò per la promozione di Dan, ma fu pacificato con un bellissimo lucchetto per la sua nuova darsena e con l'idea che i marinai sono destinati a ben più alti onori che non guidare carri al mercato e fare le commissioni per la famiglia. Così Dan per parecchie settimane adempì bene il suo nuovo incarico e non parlò più di scappare. Ma un giorno il signor Baer lo sorprese che stava picchiando Jack, il quale strillava e invocava pietà sotto il suo ginocchio. «Ma come, Dan? Credevo che tu avessi rinunziato a fare a pugni», disse accorrendo alla riscossa. «Mica ci picchiamo, facciamo solo la lotta», rispose Dan lasciandolo andare a malincuore. «Mi pare che sia pressappoco la stessa cosa. Deve fare all'incirca lo stesso effetto, vero Jack?» disse il signor Baer mentre il giovincello battuto si rimetteva con difficoltà sulle gambe. «Non mi ci lascio più prendere a lottare con quello lì. Mi ha quasi portato via la testa», ringhiò Jack tenendosela con le due mani come se realmente gli si fosse staccata dalle spalle. «Beh, il fatto è che abbiamo cominciato per ridere, ma quando l'ho buttato a terra non ho potuto fare a meno di pestarlo un po'. Mi rincresce di averti fatto male, vecchio mio», spiegò Dan con aria assai mortificata. «Capisco», La voglia di picchiare qualcuno era così forte che non hai potuto resistere. Tu sei una specie di berserk. Sai, quei leggendari guerrieri della mitologia scandinava che in battaglia erano assaliti da una specie di frenesia e urlavano e digrignavano i denti ed erano ritenuti invulnerabili. Così, Dan, qualcuno con cui azzuffarti ti è necessario, come la musica per Nat. Disse il signor Baer, che era al corrente della conversazione fra il ragazzo e sua moglie. È più forte di me, quindi se non vuoi essere pestato farai meglio a tenerti al largo, rispose Dan con un tale sguardo negli occhi neri che Jack se la svignò più che in fretta. Beh, se hai proprio bisogno di sfogarti su qualcosa, io ti darò un osso più duro di Jack, disse il signor Baer, e precedendolo nella legnaia gli additò certi ceppi sradicati in primavera e rimasti lì in attesa di essere spaccati. Ecco, quando ti piglia la voglia di maltrattare i ragazzi, vieni a sfogare qui la tua energia e te ne sarò grato. Volentieri. E afferrata la scura e posata lì vicino, Dan attaccò un ceppo durissimo con tale vigore che le schegge presero a volare da ogni parte e Papa Baer batté in ritirata spaventato. Con suo gran divertimento, Dan lo prese in parola e lo si vide spesso lottare con dei ceppi resistenti, a capo scoperto, senza giacca, rosso in faccia e con occhi furibondi, perché si arrabbiava sul serio contro quei suoi avversari, imprecando fra i denti finché non li aveva domati. E allora, tutto esultante, usciva dalla legnaia portando in trionfo una bracciata di nocchiuti pezzi di quercia. Si riempiva le mani di vesciche, si rompeva la schiena, spuntava l'ascia, ma questo gli faceva bene e traeva da quei brutti ceppi più conforto di quanto si potesse credere, perché con ogni colpo sprigionava qualcuna di quelle forze rinserrate che altrimenti sarebbero esplose in maniera meno innocua. Ma quando anche questo sarà finito, non so proprio che cosa potrò fare, pensava mamma Jo, perché non le veniva nessuna ispirazione e le sue risorse erano ormai esaurite. Ma Dan seppe trovarsi da solo un nuovo sfogo, che lo divertì per un pezzo senza che dapprima gli altri scoprissero la causa della sua contentezza. Un bel puledro, il signor Lori, tenuto quell'estate a Plumfield, correva libero in un largo pascolo oltre il ruscello. I ragazzi si interessavano molto a quella bella creatura vivace, e nei primi tempi non si stancarono di ammirarlo mentre galoppava e saltava con la coda al vento e la fiera testa eretta. Ma presto venne loro a noia e lasciarono in pace Prince Charlie. Ma Dan, no, lui non si stancava mai di guardare il cavallo ed era raro che mancasse di fargli la sua visita portandogli una zolletta di zucchero, un pezzo di pane o una mela. Charlie, grato, accettava la sua amicizia e i due se la intendevano, come se sentissero fra loro un legame inesplicabile ma forte. In qualunque parte del pascolo fosse, Charlie arrivava sempre di galoppo al fischio di Dan, e il ragazzo era felice quando la bella creatura veloce gli posava la testa sulla spalla, guardandolo coi suoi begli occhi pieni di intelligenza e di affetto. «Noi ci comprendiamo, senza bisogno di tante chiacchiere, vero, vecchio mio?» gli diceva Dan, fiero della fiducia del cavallo e così geloso di lui che non raccontava a nessuno i progressi di quell'amicizia e non si faceva accompagnare nelle sue visite quotidiane che da Tommy. Il signor Lori veniva ogni tanto a vedere come stesse Charlie e parlava di cominciare a mettergli la sella il prossimo autunno. «Ci vorrà poco a domarlo. È una bestia così mite e di buon carattere. Un giorno o l'altro voglio provare», disse in una di quelle visite. «Da me si lascia mettere la cavezza, ma non credo che sopporterebbe una sella, neppure se fosse lei a mettergliela», rispose Dan, che era sempre presente agli incontri fra Charlie e il suo padrone. «Lo prenderò alle buone e gliela farò portare, e poco male se le prime volte ci sarà qualche capitombolo. Non è mai stato trattato duramente, quindi queste novità potranno sorprenderlo, ma non spaventarlo. Qualche suo ghiribizzo non farà alcun male. Chissà che cosa potrà fare», pensava Dan, mentre il signor Lori se ne andava col professore e Charlie tornava alla staccionata da cui si era allontanato al loro arrivo. Una voglia pazza di provarcisi lui prese il ragazzo mentre sedeva sulla sbarra più alta e la lucida groppa gli era vicina come una tentazione. Incurante del pericolo, obbedì al suo impulso e mentre Charlie, senza alcun sospetto, rosicchiava la mela che gli aveva offerta, Dan gli balzò addosso. Non ci rimase però a lungo. Con un nitrito di stupore, Charlie fece una sgropponata e lo scaraventò sul suolo. La caduta non gli fece male perché l'erba era soffice. Dan balzò subito in piedi dicendo fra le risa: «Però ci sono riuscito, vieni qui, briccone, che provo di nuovo». Ma Charlie rifiutò di avvicinarsi e Dan lo lasciò, ben risoluto di raggiungere il suo intento, perché una lotta di quel genere era proprio quanto gli ci voleva. La volta dopo prese una cavezza e, dopo avergliela messa e aver giocato un po', conducendolo avanti e indietro e lasciandolo saltare e scalciare finché fu un po' stanco, salì sul muro e, mentre gli offriva del pane, colto il momento opportuno, si afferrò saldamente alla cavezza e si lasciò scivolare sulla groppa del cavallo. Charlie tentò il solito trucco, ma Dan stette saldo, avendo fatto pratica con Toby, che ogni tanto aveva degli accessi di ostinazione e cercava di buttare a terra il cavaliere. Charlie, sbalordito e indignato, dapprima si impennò, poi si diede al galoppo, mandando Dan a gambe all'aria. Se non fosse appartenuto alla categoria di ragazzi che passano illesi attraverso ogni sorta di pericoli, si sarebbe rotto il collo. Ma certo fu una brutta caduta ed egli rimase per terra cercando di riaversi, mentre Charlie correva attorno al prato scuotendo la testa, molto soddisfatto della sconfitta del suo cavaliere. Ma poi parve capire che qualche cosa non andava bene per Dan, ed essendo magnanimo di natura andò a vedere che fosse avvenuto. Dan lasciò che soffiasse attorno a lui, molto perplesso, per qualche minuto. Poi lo guardò e gli disse, con aria decisa, come se potesse capirlo: «Tu credi di avermi battuto, ma ti sbagli, ragazzo mio. Io ti cavalcherò, vedrai se non ci riesco». Per quel giorno Dana non fece altri tentativi, ma l'indomani provò un nuovo metodo per abituare Charlie a sopportare i pesi. Gli legò sulla groppa una coperta ripiegata e poi lo lasciò correre, scalciare, rotolarsi per terra e infuriarsi quanto voleva. Dopo qualche accesso di ribellione, Charlie si sottomise e, a distanza di pochi giorni, si lasciò montare da Dan, fermandosi spesso all'improvviso per guardarsi attorno, quasi a dire, con aria un po' di sopportazione e un po' di rimprovero: «Non ne capisco nulla, ma credo che tu non abbia cattive intenzioni, quindi prenditi pure questa libertà». Dan lo palpeggiò e lo lodò, e ogni giorno fece una piccola cavalcata con frequenti capitomboli che non lo indussero però a desistere. E con una gran voglia di avere selle briglie, senza peraltro trovare il coraggio di confessare quanto aveva fatto. Ma il suo desiderio fu esaudito grazie a un testimonio delle sue prodezze che parlò per lui. «Lo sa quel che ha fatto recentemente quel ragazzo?» chiese una sera Silas al suo padrone, mentre questi gli dava gli ordini per il giorno dopo. «Ah, che ragazzo!» chiese il signor Baer, con aria rassegnata, aspettandosi qualche brutta notizia. «Dan! Si è messo a domare il puledro, signore, e che io possa morire se non c'è riuscito», rispose Silas ridacchiando. «Come fai a saperlo?» «Beh, io tengo un po' d'occhio, ragazzini, e per lo più so quello che stanno combinando. Così, quando Dan ha cominciato ad andare al pascolo e a tornare a casa tutto lividi, ho pensato: qui, gatta ci cova. E senza dir nulla sono salito nel fienile, e di lì ho visto tutto quello che armeggiava con Charlie. Dio lo benedica, se ne ha fatti dei capitomboli e ne ha presi degli scossoni. Pareva un sacco di grano, ma col suo fegataccio la spuntata ci dava dentro come se ci provasse gusto». «Ma Silas, perché non l'ha impedito? Avrebbe potuto ammazzarsi», disse papà Bar, chiedendosi quale altro ghiribizzo i suoi istinti ribelli gli metterebbero ancora in testa. «Forse è vero, ma in fondo non c'era un gran pericolo, perché Charlie non è un cavallo vizioso. È il cavallo più buono che io abbia mai visto. Il fatto sta che non ho avuto il coraggio di guastargli il divertimento, perché se c'è qualcosa che ammiro è il fegato, e Dan di fegato ne ha da vendere. Ora so che si strugge per avere una sella, ma di nascosto non vuol prendere neppure quella vecchia. E allora ho pensato meglio di veniglielo a dire, e forse lei potrebbe lasciargli provare. Al signor Lori non rincrescerà, di certo, e Charlie non può che guadagnarci». «Vedremo». E il signor Baer uscì per prendere le sue informazioni in proposito. Dan ammise subito il fatto e fu orgoglioso di dimostrare che Silas aveva avuto ragione, parlando del suo ascendente su Charlie, perché a forza di carezze, carote e infinita perseveranza era realmente riuscito a cavalcare il puledro con una cavezza e una coperta. Il signor Lori fu molto divertito e compiaciuto del coraggio e dell'abilità di Dan, cui permise di assisterlo nell'ulteriore educazione di Charlie, alla quale si accinse subito, dicendo che non voleva lasciarsi bagnare il naso da un ragazzetto. Grazie a Dan. Charlie, una volta riconciliatosi con quell'indegno freno, accettò docilmente selle e briglie e dopo che il signor Lori lo ebbe un poco allenato, Dan ebbe il permesso di montare a cavallo, con invidia e ammirazione dei ragazzi. Vero che è bello? E con me è docile come un agnellino, disse un giorno Dan appena smontato, tenendo un braccio intorno al suo collo. Sì? E non è ora un animale molto più utile e simpatico di quel selvaggio puledro che passava le sue giornate correndo per il prato, saltando siepi e scappando ogni tanto? Chiese mamma Jo di cima ai gradini, ove sempre compariva quando Dan esercitava Charlie. Certo che lo è. Guardi, ora non scappa neppure se non lo tengo, e viene da me appena fischio. L'ho domato bene, vero? Disse Dan, orgoglioso e contento, non senza ragione, perché nonostante le loro lotte passate, Charlie gli voleva più bene che al suo padrone. Anch'io sto domando un puledro, e spero che riuscirò, come sei riuscito tu, se sarò paziente e perseverante. Disse mamma Jo, sorridendo, in modo così significativo che Dan comprese e rispose, con volto ridente ma con tono serio: Noi non salteremo sopra la siepe per scappare, ma lasceremo che facciano di noi qualcosa di buono e di utile. Vero, Charlie? Capitolo 17. La giornata dei componimenti. Su, ragazzi, sono le 3 e lo zio Fritz vuole che siamo puntuali, lo sapete pure, disse Franz un mercoledì pomeriggio, mentre il campanello suonava e una schiera di giovincelli dall'aria di dottoroni, carichi di libri e di fogli, si avviò verso il museo. Tommy era ancora nell'aula, chino sul suo banco, tutto sporco di inchiostro, rosso per l'ardore dell'ispirazione e affannato, secondo il solito, perché quel facilone di Banks non era mai pronto fino all'ultimo momento. Mentre Franz passava davanti all'uscio per sollecitare i ritardatari, egli fece un altro sgorbio, un altro svolazzo e saltò dalla finestra, sventolando il foglio per farlo asciugare. Lo seguiva Dan, che si dava una grande importanza con un rotolo di carta in mano, e Amy scortava Daisy, tutti e due gonfi di qualche meraviglioso segreto. Il museo era in perfetto ordine, e il sole, filtrando attraverso la vite rampicante, gettava ombre graziose sul pavimento come se facesse capolino dal finestrone. Da un lato sedevano il signore e la signora Baer. Dall'altro c'era una piccola tavola su cui venivano deposti i componimenti dopo letti, e i ragazzi formavano un largo semicerchio seduti su sgabelli da campo che ogni tanto si chiudevano, buttando in terra chi vi stava sopra e temperando alquanto la rigidezza dell'assemblea. Siccome leggere i lavori di tutti avrebbe richiesto troppo tempo, leggevano per turno, e quel mercoledì toccava esibirsi ai più giovani, mentre i più grandi ascoltavano con aria di condiscendenza e criticavano liberamente. Prima le signore, cominci Nan, disse il signor Baer quando cessò il rumore delle sedie e il fruscio dei fogli. Nan prese posto accanto al tavolo e dopo una risatina preliminare lesse il seguente saggio interessante. La spugna. La spugna, amici miei, è una pianta molto utile e interessante. Cresce sulle rocce sott'acqua e credo che sia una specie di alga. La gente la raccoglie, la fa seccare e la lava, perché nei fori della spugna vivono pesciolini e insetti. Nella mia spugna nuova ho trovato conchiglie e sabbia. Alcune sono finissime e morbide e ci si lavano i bambini. La spugna serve a molti usi, ne indicherò alcuni e spero che i miei amici ricorderanno quello che dico. Uno è di lavarcisi la faccia. A me non piace, ma lo faccio lo stesso perché desidero essere pulita. Ci sono di quelli che non lo fanno e sono sporchi. E qui gli occhi della lettrice si fissarono severamente su Dick e Dolly, che fremettero sotto quello sguardo e presero la risoluzione di strusciarsi virtuosamente ogni volta che fosse necessario. Un altro uso a cui serve è di svegliare la gente. Alludo ai ragazzi particolarmente. Nuova pausa, dopo la lunga parola, per godersi la risata sommessa che corse per la stanza. Alcuni ragazzi non si alzano quando sono chiamati, allora Mary Ann spreme loro sulla faccia una spugna bagnata, e questo li indispettisce tanto che saltano il letto. Qui tutti scoppiarono a ridere, e Emil disse assai piccato: Mi pare che tu divaghi dall'argomento. Non divago niente affatto. Noi dobbiamo scrivere sui vegetali e animali e io scrivo su tutti e due. Forse che i ragazzi non sono animali? Chiese Nan e, senza preoccuparsi del noi, indignato che le gridarono contro, proseguì con perfetta calma. Ma una cosa ancora più interessante servono le spugne. Cioè, quando i dottori ci versano sopra dell'etere e le tengono sotto il naso della gente prima di strappare i denti. Io lo farò quando sarò più grande e darò l'etere agli ammalati perché si addormentino e non mi sentano quando taglierò loro le gambe e le braccia. Io so di qualcuno che ammazzava i gatti in questo modo, interruppe Demi, ma fu prontamente ridotto a silenzio da Dan che gli rovesciò lo sgabello e gli mise un cappello sulla faccia. Non voglio essere interromputa, disse Nan, facendo la faccia scura agli sconvenienti disturbatori. L'ordine fu subito ristabilito e la damigella chiuse così il suo saggio. Il mio componimento ha tre morali, amici miei. Qualcuno gemette, ma senza rilevare l'insulto. Ella continuò. Primo, tenete la faccia pulita. Secondo, alzatevi presto. Terzo, quando vi mettono sotto il naso la spugna con l'etere, respirate forte senza tirar calci e i vostri denti saranno estratti facilmente. E non ho altro da dire. E Madamigella Nan si sedette in mezzo a un tumulto di applausi. Ecco un componimento davvero notevole. Il tono è elevato e non manca di spirito. Molto bene, Nan. Ora a Daisy. E signor Baer sorrise alla prima, mentre faceva cenno alla seconda di avanzarsi. Daisy si colorì deliziosamente in volto, prendendo il suo posto, e disse con la sua vocina modesta: Ho paura che il mio non vi piacerà. Non è bello e divertente come quello di Nan, ma non ho saputo fare di meglio. I tuoi ci piacciono sempre, fiorellino caro, disse lo zio Fritz, e un gentile mormorio dei ragazzi parve confermare la sua osservazione. Così, incoraggiata, Daisy lesse il suo foglietto e fu ascoltata con rispettosa attenzione. Il gatto. Il gatto è un caro animale, io li amo molto. Sono puliti, acchiappano sorci e topi. Si lasciano accarezzare e se li trattate bene vi si affezionano. Sono molto intelligenti e sanno ritrovare la loro strada dovunque. I gatti piccoli si chiamano micini e sono delle cosette tanto graziose. Io ne ho due, chiamati Hoots e Booz, e la loro madre è Topazio perché ha gli occhi gialli. Lo zio mi ha raccontato una bella storia di un uomo chiamato Maometto. Aveva una bella gatta e una volta che gli si era addormentata nella manica e lui voleva uscire, tagliò la manica per non svegliarla. Doveva essere un uomo molto gentile. Ci sono dei gatti che acchiappano i pesci. Anch'io, gridò Teddy, balzando su, smanioso di raccontare della sua trota. Zitto, ammonì la mamma, affrettandosi a farlo sedere di nuovo, perché di solito Daisy detestava di essere interromputa, come diceva Nan. Ho letto di uno che lo faceva con molta destrezza. Ho cercato di insegnarlo a Topazio, ma non le piace l'acqua e mi ha sgraffiata. A lei piace il tè e quando gioco nella mia cucinetta batte con la zampa sulla teiera finché non gliene do un poco. È una bella gatta e mangia la torta di mele e la melassa, ma la maggior parte dei gatti lo fanno. Splendido! Esclamò Nat e Daisy si ritirò contenta dell'elogio del suo amico. Demi sembra così impaziente che bisognerà chiamarlo subito, se no non resiste, disse lo zio Fritz. E Demi, saltando su pronto, il mio è un poema, annunziò con tono solenne e lesse il suo primo tentativo con voce forte e aria di importanza. Viva, viva la farfalla, verde, rossa, azzurra e gialla. Non ha il canto degli uccelli, ma vestiti così belli. Picciol verme trascurato, di bembozzolo dorato, e nel bozzolo poi cresce la farfalla e fuori nesce. Rugiada e miele il suo mangiare, casa non ha, non ha alveare. Non punge come le vespi e l'api, male non fa. Cerchiam fanciulli noi di imitare la sua bontà. Oh, se potessi esser farfalla e verde, rossa, azzurra e gialla, senza che Dan con mano destra versasse canfora sulla mia testa. Questa insolita esplosione di genio minacciò di far crollare la casa ed Emmy fu obbligato a rileggere il suo poema, compito alquanto difficile per l'assenza della punteggiatura e perché il fiato mancava al piccolo poeta prima di arrivare in fondo ai versi più lunghi. Diventerà un altro Shakespeare, disse la zia Jo ridendo, fino alle lacrime. dato che quella gemma poetica le ricordava una delle sue, scritta quando aveva 10 anni e che cominciava malinconicamente. Vicino all'acqua, d'un ruscelletto, chi mi ninnasse con lento andare, vorrei in quiete morta posare e che mi stesse di fronte un colle lieto di canti e di corolle. Avanti, Tommy, se c'è lì dentro tanto inchiostro quanto ce n'è di fuori, sarà certo un lungo componimento, disse papà Baer quando finalmente Demi si decise a staccarsi dal suo poema e rimettersi a sedere. Non è un componimento, è una lettera. Capite? Mi sono dimenticato che era il mio turno e mi è tornato in mente solo dopo finite le lezioni, e così non sapevo che argomento scegliere e non avevo tempo di preparare nulla. Allora ho pensato che non vi dispiacerebbe se leggessi una lettera che ho scritta alla nonna. C'entrano un po' gli uccelli e quindi mi è parso che potesse andare. Dopo questa lunga premessa, Tommy si tuffò in un mare di inchiostro, sguazzandovi dentro e fermandosi ogni tanto per decifrare uno dei suoi scarabocchi. Mia cara nonna, spero che tu stia bene. Lo zio James mi ha mandato un fucilino. È un grazioso piccolo strumento che serve ad ammazzare, fatto così. Qui Tommy mostrò un notevole schizzo di qualcosa che poteva parere una pompa molto complicata e l'interno di una piccola locomotiva. 44 è la mira. 6 una falsa cassa che si adatta in A. 3 è il grilletto e 2 il cane. Si carica dalla culatta e spara con grande forza e precisione. Presto andrò a caccia di scoiattoli. Ho ucciso molti begli uccelli per il museo. Hanno il petto picchiettato e ad Ann sono piaciuti molto. Li ha impagliati subito e stanno sull'albero come se fossero vivi, ma uno sembra un po' brillo. L'altro giorno avemmo qui un operaio francese e Asia diceva il suo nome in un modo tanto buffo che voglio raccontarti tutto. Si chiamava Germain. Prima l'ha chiamato Jerry, ma noi abbiamo cominciato a burlarle, allora l'ha cambiato in Geremia. Ma il risultato fu ancora più ridicolo e quindi è divenuto il signor Germany. E siccome si è ricominciato a ridere, è diventato Garrimon. E così è rimasto in seguito. Io non scrivo spesso perché sono tanto occupato, ma penso molto a te, comprendendo la tua pena. E spero sinceramente che tu vada avanti bene quanto è possibile senza di me. Il tuo affezionato nipote, Thomas Buckminster Banks. PS. Se ti capitano dei francobolli, ricordati di me. NB. Saluti affettuosi a tutti, e specialmente alla zia Almira. Fa ancora quei buoni dolci con l'uva passa? PS. La signora Baer manda i suoi ossequi. PS. E così farebbe il signor Baer se sapesse che ti sto scrivendo. NB. Il babbo mi vuol regalare un orologio per il mio compleanno. Ne sono contento perché non so mai che ora è e spesso arrivo a scuola in ritardo. PS. Spero di vederti presto. Non vuoi mandarmi a prendere? TB. Siccome ogni poscritto fu accolto dai ragazzi con una nuova risata, quando arrivò al sesto e ultimo, Tommy era così esaurito che non gli parve vero di sedersi e di asciugarsi il viso rubicondo. Io spero che la cara vecchia signora potrà sopravvivere a questa prova, disse il signor Baer approfittando del chiasso che copriva la sua voce. Meglio non tener conto del chiaro accenno nell'ultimo PS. La lettera sarà già quant'essa può sopportare senza aggiungervi Tommy. Rispose la signora Joe, ricordando che di solito la vecchia signora era costretta a letto dopo ogni visita del suo esuberante nipote. Ora tocca a me, disse Teddy, che aveva imparato una poesiola e nella sua smania di recitarla si era dondolato su e giù durante tutta la lettura e non poteva essere frenato più a lungo. Ho paura che la dimentichi, si aspetta, ed è stata una bella fatica insegnargliela, disse sua madre. Teddy trotterellò alla tribuna, fece un inchino piegando in pari tempo il capo per contentare tutti, poi, con la sua vocetta di bimbo e accentuando le parole a sproposito, disse i suoi versi tutti d'un fiato. Sono d'acqua gossoline, tante sì, ma assai piccine, son di sabbia ganellini, fitti come puntolini, ma le gosse, dolci a male, fanno un fiume, fanno un male. E minuscoli granelli fanno campi e prati belli, paloline dolci e cale, mutan spesso il casolale, in un velo paradiso e l'allegrano ogni viso. Alla fine, battendo le mani, fece un altro doppio saluto e poi corse a nascondere la faccia nel grembo della mamma, sopraffatto dal successo del suo pezzo, perché gli applausi erano stati fragorosi. Dick e Dolly non scrivevano, ma osservavano le abitudini di animali e di insetti e riferivano oralmente quanto avevano visto. A Dick questo piaceva e trovava sempre molte cose da dire. Quando fu la sua volta, avanzò e, fissando gli ascoltatori coi suoi occhi chiari, sereni, narrò la sua piccola storia con tanta serietà che nessuno sorrise del suo corpo contraffatto, perché l'anima retta traluceva bellissima attraverso di esso. Ho osservato le libellule e ho letto alcune cose nel libro di Dan e cercherò di dirvi quello che ricordo. Ce n'è una quantità che volano sullo stagno, tutte azzurre, con grandi occhi e ali che sembrano di merletto, molto graziose. Ne ho presa una e l'ho osservata e mi è parsa il più bell'insetto che abbia mai visto. Mangiano delle bestioline più piccole di loro e le afferrano con una specie di gancio curioso che tengono ripiegato quando non cacciano. Amano il sole e vi danzano dentro tutto il giorno. Vediamo che altro ho da dirvi. Ah sì, le uova vengono deposte nell'acqua, scendono sul fondo, si schiudono nel fango e ne vengono fuori delle brutte cosette. Non ne so il nome, ma sono brune e cambiano continuamente la pelle e si fanno sempre più grosse. Figuratevi che impiegano 2 anni a diventare libellule. Ora, questa è la parte più curiosa della faccenda, quindi state attenti perché non credo che lo sappiate. Quando è il momento, quel brutto vermiciattolo se ne accorge. Esce fuori dall'acqua, arrampicandosi su un'alga o su un giunco, e si spacca sulla schiena. Via, questa non la bevo, disse Tommy, il quale per niente osservatore era persuaso che Dick inventasse delle frottole. Non è vero che si spacca sulla schiena? E Dick fece appello al signor Baer, che assentì risolutamente con grande soddisfazione del piccolo oratore. Ebbene, dunque, la libellula viene fuori, completa, e si mette al sole, come per diventare viva, capite? E poi si rinforza, poi allarga le sue belle ali e vola via nell'aria, e non è più un vermiciattolo. Ecco quanto so, ma voglio studiarle per assistere alla trasformazione, perché deve essere una cosa splendida cambiarsi in una bella libellula, non vi pare? Dick aveva raccontato molto bene la sua storia, agitando le mani per descrivere il volo dell'insetto appena nato e guardando in alto, come se lo vedesse e desiderasse seguirlo. Qualcosa nell'espressione del suo volto fece pensare agli ascoltatori adulti che un giorno o l'altro il piccolo Dick avrebbe visto esaudito il suo desiderio e che dopo anni di scoraggiamento e di dolore, un giorno felice, salendo verso la luce e lasciandosi dietro il povero corpicino, avrebbe assunto una nuova forma deliziosa in un mondo più bello di questo. La signora Jo se lo trasse vicino e gli disse, baciandolo sulle guance pallide: «È una storia tanto cara la tua, e te la sei ricordata a meraviglia. Scriverò alla tua mamma per raccontarglielo». E Dick le si accomodò sulle ginocchia, sorridendo contento dell'elogio, ben deciso a spiare il momento in cui la libellula esce dal vecchio corpo e a vedere come ciò succede. Dolly aveva da fare alcune osservazioni sull'anatra selvatica e le fece in tono di cantilena perché le aveva imparate a mente e trovava tutta quella faccenda una gran seccatura. Le anatre selvatiche sono difficili da uccidere, i cacciatori stanno nascosti e sparano e hanno delle anatre domestiche che servono ad attirare quelle selvatiche dove loro possono sparare. Ne hanno anche di legno che galleggiano e quelle selvatiche vanno a vederle, devono essere delle gran stupide. Le nostre anatre sono domestiche, mangiano molto e frugano col becco nel fango e nell'acqua. Non si prendono cura delle loro uova, ma le lasciano andare a male. Le mie no, protestò Tommy. Ebbene, altre sì, l'ha detto Silas. Le galline si prendono cura degli anatrocoli, ma fanno un mucchio di storie perché non vogliono vederli andare nell'acqua. Però i piccoli non ci badano affatto. A me piace l'anatra ripiena con molta salsa di mele. Io ho qualcosa da dire sulle civette, cominciò Nat, che si era accuratamente preparato sull'argomento con l'aiuto di Dan. Le civette hanno una grossa testa, occhi rotondi, becco arcuato e forti artigli. Ce ne sono di grigie, di bianche, di nere e di giallicce. Le penne sono morbidissime e arruffate. Volano in silenzio e danno la caccia ai pipistrelli, ai topi, agli uccelli, eccetera. Fanno il nido nei granai, nelle cavità degli alberi e certe si cacciano nei nidi di altri uccelli. La grande civetta cornuta fa due uova più grosse di quelle delle galline, di un rosso scuro. La civetta bruna fa cinque uova, bianche e lisce. È questa che stride la notte. Un'altra specie fa un verso che sembra un bimbo che pianga. Mangiano interi i topi e i pipistrelli, e le parti che non possono digerire ne fanno delle piccole palle e le sputano. Oh, questa è davvero curiosa, osservò Nan. Di giorno non ci vedono, e se escono alla luce svolazzano in giro mezze cieche e gli altri uccelli le inseguono e le beccano come per beffarle. La civetta cornuta è molto grande, quasi come un'aquila. Mangia conigli, topi, serpi e uccelli e vive fra le rocce e le rovine delle case diroccate. Fanno vari versi e strillano come una persona strangolata e dicono «Kikibau! Kikibau!» e spaventano la gente di notte nei boschi. La civetta bianca vive sul mare, nei paesi freddi, e somiglia a un falco. C'è un genere di civette che scava delle buche e ci vive dentro, come le talpe. Si chiama la civetta delle tane ed è molto piccola. La civetta dei granai è la più comune. Ne ho osservata una nel buco di un albero che pareva un gattino grigio, con un occhio chiuso e l'altro aperto. Esce fuori a buio e fa la posta ai pipistrelli. Ne ho acchiappata una, eccola qui. E Nat tirò fuori all'improvviso di sotto la giacchetta un piccolo uccello morbido che sbatteva le palpebre e arruffava le piume, grasso, sonnacchioso e spaventato. «Non la toccate, ora vedrete», disse Nat, mostrando la sua beniamina con grande orgoglio. Prima di tutto le mise sulla testa un cappello rialzato da una parte e i ragazzi risero dell'effetto buffo che faceva. Poi aggiunse un paio di occhiali di carta che le dettero un'aria talmente grave che tutti si smascellarono dalle risa. Lo spettacolo si chiuse facendo arrabbiare l'uccello che, appeso a un fazzoletto con la testa in giù, beccava e chiocciava, come diceva Rob. Dopodiché gli fu ridata la libertà e volò su un mazzo di pini attaccato alla porta, dove rimase appollaiato a fissare la compagnia con un'aria di dignità sonnolenta che li divertì molto. «E tu hai qualcosa per noi, Giorgio?» chiese signor Baer quando fu ristabilito il silenzio. «Beh, ho letto e imparato tante cose sulle talpe, ma dichiaro che ho dimenticato tutto, eccetto che scavano delle buche dove vivono e che non possono campare se non mangiano spesso». E Staffi si sedette, rimpiangendo la pigrizia che gli aveva impedito di scrivere le sue preziose osservazioni. «Allora per oggi abbiamo finito», cominciava il signor Baer, ma Tommy lo interruppe in gran fretta. «No, non ancora! Non lo sa? Dobbiamo dare quella cosa!» e ammiccò energicamente facendo cannocchiale della mano. «Oh, la mia testa, me ne ero scordato! Su, Tom, ora tocca a te!» E il signor Baer ricadde sulla seggiola, mentre i ragazzi, salvo Dan, sembravano immensamente eccitati. Nat, Tommy ed Amy uscirono e rientrarono subito portando un piccolo astuccio di marocchino rosso posato pomposamente sul miglior vassoio d'argento della signora Jo. Lo portava Tommy, scortato da Nat e da Demi, e si diresse verso l'inconscio Dan che li guardava come se credesse che volessero burlarsi di lui. Tommy aveva preparato per l'occasione un discorso forbito e commovente, ma giunto il momento se ne dimenticò e disse soltanto, come gli dettava il suo cuore di bimbo buono. «Ecco, vecchio mio, noi tutti volevamo darti qualcosa per riparare quanto è successo tempo fa e mostrarti che ti vogliamo bene. Sei stato così generoso, prendilo e divertiti». Dan, nella sua grande sorpresa, non poté che diventare rosso come il piccolo astuccio e mormorare «Grazie, ragazzi», mentre cercava di aprirlo, ma quando ne vide il contenuto, il suo volto si illuminò e, tenendo fra le mani il tesoro tanto desiderato, disse con un entusiasmo che li soddisfece pienamente, sebbene il linguaggio fosse tutt'altro che elegante, «Corpo, che meraviglia! Ragazzi miei, siete stati straordinari, proprio quello che desideravo, qua la zampa, Tommy!» Molte zampe si tesero e furono scosse cordialmente perché i ragazzi erano contenti della gioia di Dan e gli si serravano attorno per dargli energiche strette di mano e mettere in rilievo le bellezze del loro dono. Nel bel mezzo di questo piacevole chiacchierio, gli occhi di Dan caddero sulla signora Jo, che stava in disparte godendosi la scena con tutto il cuore. «No, no, io non c'entro per nulla, sono stati soltanto loro», disse la signora, in risposta allo sguardo di riconoscenza che pareva ringraziarla per quel felice momento. Dan sorrise e disse con un tono che la sola poteva capire. È sempre lei lo stesso. E facendosi largo tese la mano prima alla signora e poi al buon professore che osservava raggiante i suoi ragazzi. Li ringraziò tutti e due, stringendo in silenzio le mani benefiche che lo avevano risollevato e condotto nel sicuro rifugio di quella casa felice. Non una parola fu pronunziata, ma essi capirono tutto quanto avrebbe voluto dire. Il piccolo Teddy espresse la loro soddisfazione, protendendosi dalle braccia del suo babbo per cingere il collo del ragazzo e dicendo con la sua voce infantile: «Danny mio, tutti ora ti vogliono bene!» «Su, Dan, metti in opera il tuo microscopio, facci vedere qualcuno dei tuoi famosi girini e dei tuoi infusori, come li chiami!» disse Jack, che durante tutta quella scena s'era sentito così a disagio che se Emil non lo avesse trattenuto sarebbe sgusciato via. «Subito, dacci un'occhiata e vedi che ne pensi», propose Dan, felice di mostrare il suo prezioso strumento. Lo posò sopra uno scarabeo che stava sulla tavola e Jack si chinò a guardare, ma subito alzò gli occhi dicendo con aria sbalordita: «Povero me, che pinze! Ora capisco perché fa così male quando se ne acchiappa uno!» «Mi ha strizzato l'occhio!» esclamò Nan, che aveva cacciato la testa sotto il gomito di Jack per dare anche lei un'occhiata. Tutti guardarono a turno, e poi Dan mostrò loro la graziosa peluria sull'ala di una tarma, le venature di una foglia appena visibile a occhio nudo, ma simili a una fitta rete sotto la meravigliosa lente. La pelle della loro dita, con quelle curiose colline e le valli, un filo di ragnatela che pareva un pezzo di ruvida seta da cucire e il pungiglione di un'ape. «Sembra il mio libro delle fate, ma è più interessante», disse Demi, incantato da quelle meraviglie. «Dan ora è un mago e può mostrarvi molti miracoli che avvengono attorno a voi, perché possiede due doti indispensabili, la pazienza e l'amore della natura. Noi viviamo in un mondo meraviglioso, Demi, e quanto più lo conoscerai, tanto diverrai migliore. Questa piccola lente vi darà una nuova serie di maestri dai quali potrete imparare di gran belle cose se vorrete», disse il signor Baer, lieto di constatare l'interesse dei ragazzi. «Guardando fisso potrei con questo microscopio vedere l'anima di qualcuno?» chiese Demi, molto impressionato dalla potenza di un pezzo di vetro. «No, caro, non è abbastanza forte e non potrà mai esserlo. Dovrai aspettare a lungo prima che i tuoi occhi siano abbastanza chiari per vedere il più invisibile dei miracoli. Ma osservando le belle cose che cadono sotto il tuo sguardo, potrai più facilmente comprendere quelle ancora più belle, quelle che non puoi vedere», rispose lo zio Fritz, posandogli una mano sul capo. «Bene, Daisy ed io crediamo che se esistono gli angeli, le loro ali devono somigliare a quelle delle farfalle che abbiamo visto sotto la lente, ma più morbide e d'oro. Credetelo pure se vi fa piacere e conservate le vostre alucce così lucenti e belle, ma non volate via tanto presto, però.» «No, non voglio volar via», e Demi mantenne la sua promessa. «Arrivederci dunque, ragazzi, devo andare, ma vi lascio col vostro nuovo professore di storia naturale.» E Mamma Jo si ritirò molto contenta di quella giornata dei componimenti.